prima, non riesco a fare 100 metri, ho bisogno di dimagrire ancora. Tu immagini che sono sceso quasi 10 kg, ero 90, 90 e sono 82, 82. Devo scendere almeno a 79, almeno a 79 per stare molto meglio, vai. È così, sì sì sì, va bene, no. Ok, avanti Lugaria. Sei preso io 80, cra. Che cazzo, ma tu me ne butti un metro? È esagerato. E sei più alto, cosa c'entra, sei più alto, eh? Sei più alto, eh. E io ero 90, però, 90 e stavo un bel male. Soprattutto quando ho finito di lavorare sono arrivato anche a 92, un bel. Questa quarantena mi ha fatto capire che si può dimagrire facendo da bravi, capito? E quindi ho dimagrito 8 kg, adesso devo scendere ancora, appena arrivo a 80 vedo un po', se mi fermo continuo così, perché sto mangiando di tutto, però molto moderatamente, capito? Massimiliano, io adesso mi metto, mi tolgo quell'alimentatore qua sotto, domani lo passo al Gavino e vedo un po', e ti prendi quello lì l'alimentatore. Per quanto riguarda il 60, usa quello, io già ne ho altri, e poi vediamo un po', se lo trovi, lo trovi, se non lo trovi, vuol dire rimani chi, vieni, se lo ti dici. No, non lo zecco direttamente, capito? Già. Se non lo cerchi fai bene, tienilo lì e basta. Ok, poi sabato già ci vediamo e mi restituisci gli altri, perché quello va veramente bene. Se riesci a eliminare quella ventola, come hai detto Tino, perché il problema è che ti porti appresso un sacco di rumori, perché l'amplificazione c'è ed è anche bella, la voce è bella corposa, non avevo dubbi che andasse bene 440 col 60 per te, perché 430 c'è un altro tipo di modulatore, il 140 lo stesso, il 80 lo stesso, il 440 con le tre conversioni che ha, la moderazione è avvenuta da vanno, che va bene. Guardalo così, guarda, adesso ci ho messo la mano sopra la ventola, l'ho proprio coperta, guarda. Si sente piano piano, ma già lo risolviamo quello, non è un problema, ti ripeto, la ventola, non sono cose brutte, già sono così vedi, come dicono in gallura, capito? Purtroppo è un rumore che un po' tutti ci portiamo appresso, io sono riuscito a eliminarlo mettendo l'alimentatore proprio in fondo, vado a permettere il cavo per alimentare il radio. Però sono tutti lunghi i miei cavi, quindi ci arrivano perfettamente. Ok, Tino, domanda, sabato mattina ci dobbiamo vedere noi? Sabato mattina sì, però se tutto va bene presto, perché poi devo scendere dal grande uomo a piazzale Lantenna, che è in Barriera delle Onde. Piazzale Lantenna, qua non ha piazzato onda. Ui, cura Edo, Edo Lantenna. Un gabbo appresso un quittantenne. Sì, sì, dimmi tu l'orario, io dalle 7 sono in piedi, non ne ho problemi. Vabbè, no, scendo alle 8, no, scenderò verso le 9 e mezza, quindi, verso quell'ora va bene. Vabbè, e cosa fai? Sali qua prima o cosa facciamo? No, non mi fai salire su, troviamoci a metà strada, boh. Troviamoci a metà strada, allora io porto il cane, presto e poi ti chiamo. E ti posso arrivare sino a, perché io poi sono fuori zona, non ho copertura. Posso arrivare sino a, dimmi tu dove ci vediamo. Che copertura devi avere? 200 metri. No, nel senso non so dove sto andando, cosa scrivo, dove. E dobbiamo uscire sempre col solito tran tran, non è che, capito? Dobbiamo uscire sempre con le solite carte, quindi non so cosa scrivere. Boh, dimmi dove ci vediamo, carta io. Non so neanche cos'è questa carta, non la conosco ancora, non l'ho già fatto una. Manco io. Oh, cla, non è aria, c'è libera uscita, puoi andare tranquillamente e dire che stai andando a un parente, così, zente. Perché hai cambiato tu? Guarda che ora puoi andare. No, non so, cosa vuoi dire? Che devo uscire da solo due punti. Cosa vuoi fare? Boh, mi attasco, io non so. Cazzo, stavamo a fare i punti, ascolta, vediamoci lì a dove abitavo io prima, dai. Ok, alla palestra bunker, come si chiama, dai, lì. Dai, dove abitavo io prima, vediamoci, dai. Tu esci da lì e poi giri via le Sicilia, io sono all'altro lato, dove c'è il bar di Adamo, dai. Via Pascoli allora. Sì, anziché fare la brittella la fai al senso contrario. Capito? Giusto per non andare molto distante, mi capito? Ci vediamo lì, dai, sabato mattina. Ci vediamo lì in via Pasqua, dai, dove porto a lavare il cane, mi. Va bene. Facciamo qui, dai. Ehi, così poi da lì vado direttamente dal padrone. Quanto sta vicino a Massimiliano? Perché hai cambiato radio? Così, giusto per... No, perché c'è il volante disinserito. Mi sono ascoltato e dove è successo? L'ho dovuto disinserire, perché con quella radio devo disinserire l'NB. Ah, non è perché qua è tutta chiusa adesso. Ma è... Mi cambia la tonalità, mi fa strappare, capite? Troppo larga, troppo larga come modulazione. E quindi devo stringere appena, va? Ok, va. Però se mi permettete io devo scendere giù e vediamo che mi sa vogliono ordinare qualche panino, qualche pizza, cosa del genere, no? Ok? Poi se non rientro vi saluto momentaneamente adesso, ok? Massimiliano, cappa di Rosmetro, noi siamo già d'accordo per quello che dobbiamo fare, tanto non te ci dobbiamo vedere sabato sera, sabato quando sali. Continuo, mi devo vedere sabato mattina, quindi non ho ostacoli, devo andare anche da Angelino, però sono impegnato, perché Angelino ha bisogno di una mano a montare l'antenna, ci andremo in settimana. Va bene, dai Massimi, lascia tutto così, trovati una soluzione per quell'avvento. Io adesso vedo di darti una mano, però sono convinto che se fai come ho fatto io a un switching mio, io gli ho tolto, eliminato la velocità e lei ha rallentato tantissimo e si sente proprio leggera. L'unico problema da fare, poi se è quell'alimentatore che do a Gavino si può mettere a posto, ti prendi quello. Ma perché? Cos'è l'alimentatore che non stai utilizzando? Un switching? Via. Ah, cappa. Cos'è un 30? No, è un 25. Ma perché non ne sto usando? 1,50 ed è silenziosissimo, mentre invece il 30 che mi hanno dato con questo qua è appena lo accendi, ma è come? E gli chiama la stessa cosa, perché sai che cosa fa questo? Quando tu schiacci la portante che entra la radio in assorbimento, lì si accelera l'avvento, ma poi quando muove la portante si accelera, capito? Vedi, adesso io neanche lo sento perché a minimo. Ma come ti accende la radio già lo aumenta, ho capito. Boh. Ma a me invece lo fa la radio direttamente, comunque. Non lo so, Massimilia, ti ripeto, è bellissima modulazione, va bene, ti do 8 per via dell'avvento, la sono sollevato 10 più. Già lo risolvo, ho fatto l'avvento, non ti preoccupare. Dino la portante calcata, perché anche lui la supera quando parla, anche a te la sento l'avvento, la tieni? Io non ho per il rumore di alternate, però c'è una che le PC è acceso, mi è acceso. Sì, la ventolina si sente, però non è fastidiosa, non fa niente. Non fa assolutamente niente, no. La tua è troppo rumorosa, nel senso troppo veloce, Massimiliano, non è rumorosa l'avvento, l'ho già detto. Bisogna rallentare la velocità e vedrai che va bene, alla grande. Va bene, vai a mangiare e anche io mi stacco, eh. Se ci siete a dopo, altrimenti buona cena a tutti e cappa di Rosmetro, ok? Andare, ok, dai, vi saluto, un abbraccio a tutti, ciao. Poi ma più tardi nel caso, è quando breccano, fate entrare, porca miseria. Che è che ha breccato? No, sapevo qualche mezz'oretta a fare. Ma dove? Qua nel canale 30? No, no, no. Le 10? Bravo. E io sono dalle... sono state le 6 e mezza, forse alle 7 con Massimiliano qua, in questo canale, facendo prof. No, anch'io non sentivo, vabbè. Avevi finito Guido? Io non posso dirtelo qua, è come un uomo di 60 anni, ma che dialogo può avere con... Aiuti, dai, cazzo, cioè... Ti ho già capito la volta scorsa, lui... Cioè, sei solidale con me, non dico che condividi, ma... Cazzo, sei solidale almeno, non si può... Ma che cosa può, di cosa posso parlare io? Ma cazzo, ma se devo parlare che mi fa male il buco del culo, posso parlare con un ragazzino di 14 anni? Cioè, non ne ho problemi a dirlo, ma non funziona così. Vabbè, d'accordo, eh? Oh, bravo. Poi, per carità, io non c'ho niente con nessuno, ma non riesco a fare questo così, capito? Ho bisogno di dialogare con persone grandi della mia età, cioè persone grandi, cioè di cosa siamo a vederli? Cioè, vabbè, dai, chiuso il discorso. Io comunque non lo sento, lo sento sempre basso. Adesso vediamo quando piazza l'antenna se arriva bene. Se arriva bene lo saluterò come fanno tutti, ma io non ci parlo perché non mi interessa parlarci. Non ho dialogo, non ho discussione, non ho argomenti. Non puoi scegliere come ti arrivo, come non ti arrivo, ho piazzato questo e sto usando questo. Non me ne affutti un par di balle. Va bene, ciao Claudio, dai, io me lo faccio. Perché sono fermato a provare una radio, un cacchio di lineare che aveva i fiali bruciati e quant'altro. Adesso ho spedito i compiti di scuola di Nicolas e mi voglio andare a fare una doccia. Vai, ti vai, tranquillo, vai a farti la doccia, salutami a tutti a casa e domani poi salutami a mio padrino. Dice che io ho dimagrito quasi 10 kg e lui ha dimagrito netto. No, anzi, ha buttato buone 12 lui, buone. Solo che ultimamente si è bruciato la faccia, mi ha mandato un video di quello che stava facendo, completamente bruciata, la faccia bruciata, allucinante, nero. Vabbè, perché poi sopra il traliccio prendiamo la sua ridica se ti chiama, No, sono qua io, No, come ne è? Un po', ma che è? Vedi se sono che sta con un campanetto, un corriere, un porta pizza, vai, aiuta la nippa, boh! E tu apri la porta a tutti, le porte del signore sono i figli. Come si è bruciato la faccia, come? È il sole, non è che... Ha fatto spaventare, insomma lo stavo per chiamare. E vabbè, è il sole, lui, se te è il sole adesso ti cuoce, sì. No, non è... Non è lavoro per me quello, che ho chiamato io per montarmi le antenne, a me me le montate Fabrizio, Marco, lui c'era, però non è riuscito a mettere. C'era tutta la banda quando ho montato le antenne, io vivo dicendo anch'io devo montare le antenne. No. A me tu mettimi in un grattacielo e io cammino, però non mi fare salire sopra i pali e sopra i tralicci perché non ci salgo. Io invece non vorrei salire sopra il castello. Va bene, no, domani, sabato, domani sarà lavoro. Sopra il castello non ho problemi, ho cambiato la frangia della fiaccola io a Fiume Santo, della piccola, quella dei nani d'Ampadomi, quella lì, capito? Con le gru di cermeli, con la 120, non ho problemi io. Dentro il castello va bene, ma io arrampicarmi così come i gatti non ci sono buono, capito? Poi altezze non ne temo, assolutamente. Neanche io, ma poi una volta che sei dentro ti abitui a quella sale 22 metri se non mi sbaglio. 22 metri, quella quando ero a Lenichen era a 70 metri mi sembra, non le bucciate giocano, lo braccio da 120, quindi il cestello non era manco stabile, infatti ci avevo la radiolina, ogni andato di visivo. Non so se tu te lo ricordi, ma il Gruissa era anche un CB. Lo vedevo i Gigioni, ragazzi, come si chiamava? Torre Billy. Aveva un nome attivo strano, ma trovavo da portatore tanti anni fa. Infatti lo chiamavo Gigio, mi si servemmo un quel bratto, mi rispondeva, mica non sono io, è il cestello che si muove. Ah sì, a me mi pareci due, rimuovi, proprio perché ondulava, però non ho paura, perché so che sono in sicurezza. Ma quando io mi devo prendere al traliccio, camminando, ponendo i piedi in mezzo, cazzo non sono più ragazzino, no. Vabbè, signore, vai, mi sposto così mi devo una sciacquata, io ho preso troppo polvere voci. Ciao, a più tardi. Ma non devi salire tu nel traliccio? No, io devo salire nel cestello per mettere a piombo le antenne, dai, diciamo, a piombo a livello più che altro. Per sistemare il boom, dai, va bene, ok, dai, se coincide ci sentiamo dopo, Lucarie, io vado a giovarmi, ci sentiamo dopo, se coincide, se no, a domani a tutti, ciao. Sì, allora, ciao Tino, ciao Claudio, sì, non so se hai sentito il telegiornale, cavolo, il tipo di, adesso mi ricordo, di un paese che è caduto da un traliccio di 15 metri. Sì, ho sentito, di Tiesi, so anche dove stavo lavorando. Conosco molto bene Tiesi perché ho lavorato lì al depuratore Tiesi. E vabbè, comunque non è morto, sarà un po' messo male, ma non è morto, dai. Cazzo, 15 metri su 15 metri, Lo so, ma vedi, tu immaginati mio cugino, il figlio Battista Scarpa, il padrone della televisione, se è caduto dal ponteggio di 2 metri, sai, ponteggi quelli che fanno della lamina, da 2 metri, la schiena per terra, un sasso, dietro la schiena e in sedia a carrozzelle, non si è fatto un graffio. Ah, il destino, in sedia a carrozzelle, Beniamino Scarpa. 2 metri, Lucarie, 2 metri, sedia a carrozzelle. Questo sembra messo male, però non è in pericolo di vita. Ma dicono che è arrivato che l'ha messo male, poi non lo so. Sì, l'ha messo male, però hanno detto, perlomeno Videolina ha detto che non è in pericolo di vita. Quindi è già un buon segno, poi magari, sai, può partire qualche emorragia interna e muore, però, cazzo, 15 metri, ma entrare tu duscio 15 metri. Si conferma, vabbè, vai tranquillo, già magari io la lascio al 10, sentate dopo un paio, un'oretta così, passiamo a domani, va bene. E allora, sì, mi sposto anch'io al 10, noi siamo soltati qua, eravamo già d'accordo da stamattina con Massimiliano per fare queste prove sul microfono, ho levato tutti i microfoni che avevo a disposizione e finalmente ne ha azzeccato uno e quindi eravamo qua, te l'hai visto, chiamato anche a te per conferma, a vedere se sentivi bene. Mi posiziono sul 10, dai, se non c'è niente la TV rientro, se no, du, arrangia di due. D'accordo, ok. Se no poi chiedi un po', se fai un po' di bianco, se vuole entrare qualcuno, capito? Ok, arrivi tu allora, io faccio un bianco. Vabbè, tu fai bianco, io faccio nero con le seppie. Ok, dai, ci sentiamo dopo, Ciao, Lugare, a dopo. Ciao, ragazzi.